America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I did not have any private meetings, nor do I recall any conversations with any Russian officials at the Mayflower Hotel. Jeff Sessions, segretario alla giustizia davanti alla commissione intelligence del Senato, ha negato tutto, ha negato di aver avuto alcun rapporto con funzionari russi, di essersi addirittura incontrato con l'ambasciatore russo Sergei Kislyak. È stata una audizione strana, secondo gli esperti, perché a fronte di queste smentite da parte del segretario alla giustizia, in realtà i fatti sembrano provare il contrario. Il Russiagate dunque va avanti. Non sappiamo esattamente quali sono stati i rapporti fra il segretario alla giustizia Donald Trump e Comey, e dunque così un altro capitolo di questo interminabile Russiagate procede. Ma non c'è solo la politica in America. Oggi parliamo di un'altra storia molto interessante. A top level executive at Uber has left the company and its CEO is reportedly considering stepping aside for a bit. Ecco, avete sentito, Travis Kalanick, fondatore di Uber, è in aspettativa, cioè di fatto ha dovuto lasciare la poltrona di amministratore delegato di Uber. Ve l'avevo anticipato qualche giorno fa perché era nell'aria, ve lo ricordo, Kalanick è il fondatore di Uber, l'ha fondata nel 2008, e oggi Uber, che ha scatenato rivoluzioni di ogni genere fra i tassisti nel mondo, ha un valore stimato in 68 miliardi di dollari. Ecco, c'è da chiedersi ma perché, come mai è stato sospeso dal suo incarico? Sentiamo proprio la voce di Kalanick. Uber version 2.0 is literally the most just place to work in the world. Ecco, avete sentito qui appunto Kalanick che dice: ma Uber, società fantastica, è la miglior società dove si possa lavorare. In realtà non è così. Tutto nasce da una lettera arrivata in febbraio al consiglio di amministrazione di Susan Fowler, che è una dipendente, la quale denunciava pubblicamente di aver avuto delle proposte sessuali da parte di un manager, di essersi lamentata. L'azienda non ha reagito, non ha fatto assolutamente nulla, e dopo questa lettera ci sono state una gran quantità di altre email, lettere, note di dipendenti che accusavano l'azienda di varie violazioni di quella che è considerata un'etica aziendale corretta e trasparente, non solo sul fronte sessuale ovviamente, ma anche su quello dei diritti, del rispetto dei dipendenti, della dignità dei dipendenti, della parità sessuale. Per esempio, nel 2013 è emerso che Kalanick aveva inviato ai dipendenti una email in cui dettava le condizioni per avere sesso con qualcuno all'interno dell'azienda. Uno degli autisti di Uber ha pubblicato su YouTube un video in cui si vede Kalanick scatenato che lo aggredisce, lo tratta malissimo, dicendogli che lui ha sbagliato, sta sbagliando il modo in cui così gestisce il suo ruolo nei confronti del cliente, perché lui si spacciava un po' da cliente. E dunque anche su quello c'è stata forte polemica, perché non è ammissibile che un alto dirigente, addirittura il capo di un'azienda, vada a umiliare un dipendente di basso rango. Non solo, Uber è stata accusata di utilizzare il software segreto Grayball per sfuggire ai controlli delle autorità in città come Boston, Parigi, Las Vegas e così via, così via. Dunque una serie di violazioni etiche, non violazioni giuridiche o legali, ma che sono emerse. E tutto questo è emerso perché il consiglio ha incaricato, pensate, addirittura il segretario, l'ex segretario alla giustizia Eric Holder, di condurre un'inchiesta. Le raccomandazioni alla fine sono state devastanti proprio per Kalanick: revisione, riallocazione delle responsabilità, valutare fino a che punto Kalanick debba avere certe responsabilità e così via, così via. E a questo punto siamo arrivati alla parola fine per il fondatore. Lui stesso ha ammesso di aver avuto delle responsabilità, dice: se siamo arrivati dove siamo arrivati è per colpa mia, e dunque me ne assumo tutte le responsabilità. Di questo se ne è parlato pubblicamente, e proprio ieri è intervenuta un membro donna del consiglio, Arianna Huffington. Però udite udite, c'è stato anche lì un piccolo problemino. I have personally loved the whole vision of Uber. And as somebody who is fascinated by... Ecco, avete sentito Rihanna Huffington, ieri dice, beh, adesso vedrete che le cose miglioreranno, i dati dimostrano che quando c'è già una donna nel consiglio è molto più facile che se ne possa aggiungere un'altra, quindi il suo era un tono conciliatorio, cercava di aprire ai dipendenti riuniti in forma assembleare. A quel punto, vicino a lui, c'era il signor Bonderman, David Bonderman, fondatore del Texas Pacific Group, investitore anche in Uber e membro del consiglio, il quale la interrompe e dice, beh, in realtà quello che dici dimostra solo che se ci sono più donne si perde molto più tempo in chiacchiere. Beh, potete immaginare che cosa è successo, si è scatenata una polemica su internet e su Twitter, perché insomma è ovviamente assurdo che nel momento in cui cerchi di difendere certe posizioni etiche, poi un consigliere afferma esattamente il contrario, come si dice, plus ça change, plus c'est la même chose. Ma vediamo un attimo il futuro. This week a new self-driving car was rolled out. It's a collaboration between Chrysler and Waymo, a spin-off of Google X, the search giant's highly secretive special projects lab. Ecco, qui avete sentito Google che entra nel settore dell'auto che guida da sola, perché qui non stiamo parlando solo di Uber, ma stiamo parlando di un intero settore che sta portando una rivoluzione. Uber ha dei concorrenti, Via, Juno, Arrow, Curb, Get, Lyft, insomma stanno nascendo molte altre aziende, soprattutto ci sono i grandi dei computer, appunto Google, la Apple che hanno messo a punto le macchine che guidano da sola, Tesla, la macchina, l'auto elettrica di Elon Musk. Insomma, qual è il modello? Il modello è che ci saranno sempre più auto che vanno da sole, non hanno bisogno di un autista. Il modello è che noi come consumatori non avremo la proprietà di un'automobile, ma ci saranno dei parchi auto in dei grandi garage, delle macchine in giro, del resto un po' le vediamo anche adesso parcheggiate anche in Italia, nelle grandi città, sono le macchine che possiamo prendere in affitto. Ecco, immaginate che invece di dover andare di persona e prelevare la macchina, la ordinate con il telefonino, la macchina si muove, arriva da sola a prendervi, voi entrate, la macchina da sola vi porta a destinazione. Insomma, una rivoluzione sotto ogni punto di vista, una rivoluzione anche per esempio per la guida dei camion. Milioni di camionisti rischiano di perdere da qui ai prossimi 5-10 anni il posto di lavoro, perché le ricerche hanno dimostrato che i camion sono molto più sicuri se hanno un sistema di guida che è automatico, cioè guidato da GPS, guidato da un meccanismo automatico. Insomma, il signor Kalanick se n'è andato, ma la rivoluzione è in atto e credo che alla fine sarà difficile fermarla. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi dedichiamola ai nostri cari amici tassisti che in qualche modo oggi, al di là delle prospettive future, beh, una piccola soddisfazione se la sono tolta. Il capo di Uber se n'è andato. E dunque di Gary Miles, Mr. Taxi Cab Driver. Hey, taxi! Over here! Yeah, where to, buddy? 1040 Washington Street, please. Yes, and hurry, Mr. Taxi Cab Driver. Taxi Driver! That address is my baby's home. Taxi Driver! Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!